Però a me, io sono stata presa come un capro espiatorio per poi parlare dei tutti i pensioni, che la mia sarà il 3.000 lordi, ma ce ne sono quelli che al mese... Certo, ma lei, quindi lei dice ce l'avete con me, ce l'avete nel senso, no, tutti se la prendono con me. Per poi parlare dei problemi dei pensioni, per cui i vari insulti li sto prendendo tutti io, mentre invece non parlano dei nomi eccellenti, e quelli che poi prendono a 47 anni e prendono anche 15, 20, 50.000 euro al mese. Ma se ne parla... Senta, ma lei come lo considera, meritato, giusto? È un beneficio della legge? Ascolti, quindi io avevo detto tempo indietro su Rai 1 che non dipende da me, secondo la Costituzione italiana, insomma, pensione deve essere data ai deputati in fine rapporto lavoro con il Parlamento, insomma, sarebbe pensione, insomma, il vitalizio. Sì. Mentre, quindi se lo prendono tutti, dice, perché non lo devo prendere? Siccome lo prendono tutti, allora io potrei anche dire che io rinuncio, ho già detto rinuncio, però la mia sarebbe ben poco per aiutare tutta la gente, quelli senza lavoro o gente povera, mentre invece ce ne sono quelli che proprio sono... Eh sì, ma tanto non si può, guardi, la tranquillizzo, non si può rinunciare a questa cosa. Io comunque farò delle mie beneficenze, perché comunque io andrò in Africa, avevo detto proprio qualche giorno fa a un giornalista che andrò in Africa, perché comunque io ho sempre fatto del sociale e voglio aiutare i bambini poveri africani e le mamme africane, quelli che proprio hanno proprio fame e quelli che hanno problemi delle AIDS. Anche con questa pensione. Senta, le chiedo questo, ma che ne pensa della politica, se è più interessante? Perché ho letto che lei vuole rientrare in politica, non ci credo. Sì, insieme con l'avvocato Luca Di Carlo, che è già prima della mia lista per Monza, stiamo preparando per fare la campagna elettorale a Monza, per il sindaco di Monza. Sì. Sindaco di Monza, Ilona Staller, che ne pensate, cittadini? Come suona? Sindaco di Monza, Ilona Staller. Eccolo qua, adesso mi mettono in croce. No, le piace l'idea? Ilona Staller, sindaco di Monza. Perché a Monza? Si è già candidata lei a Monza? Perché Monza lo conosco, perché molti anni fa, quando sono venuta in Italia, io ho abitato per un lungo periodo a Milano, tra l'altro l'adoro Milano, mi piace tantissimo. E Monza mi piace perché ho degli amici, ho frequentato e quindi conosco la gente monzese, carini, dolci. Insomma, mi piacerebbe. Quindi vuole fare il sindaco di Monza, punta a farà la campagna elettorale per diventare sindaco a Monza. E poi ovviamente mi piacerebbe anche quello che ho detto, tra i punti di quello che io vorrei nella campagna elettorale portare avanti, facciamo diventare Monza una città eccitante, facciamo diventare la Villa Reale un bellissimo casino che portasse tanti soldi alla gente. Insomma, oggi ne abbiamo bisogno tutti, tutta la gente ne ha bisogno, gente italiana compreso me, il casino. Soldi. Casino porterebbe tanti soldi, tanto lavoro per la gente italiana. Senta, ma lei politicamente come si orienta adesso? Cioè, chi le piace dei politici attuali? Ma intanto io vorrei dire una cosa, che secondo me in questo momento Monti sta facendo un ottimo lavoro. Monti è bravo, le Monti piace? Beh, a me mi dà questa impressione molto positiva e io credo che Monti potrebbe fare un ottimo lavoro, quindi di portare avanti il suo discorso, portare l'Italia fuori da questa grande crisi, ma la crisi non è solo italica, la crisi è praticamente quasi mondiale, si può dire tutta l'Europa. Adesso ho sentito che Francia sta per entrare alla, non so, terza A, perde le tre A, insomma è preparatissima, il declassamento, ecco, ci spinge a tutti quanti ogni giorno, ogni mattina la prima cosa vedo i telegiornali, io sono un assatanato di telegiornali, mi piace sentire le notizie di tutti i tipi, insomma. E quindi le piace Monti, però Monti non è un politico vero e proprio, di politici invece... A volte i politici lasciamo stare, a volte io poco tempo fa ho letto una notizia, e non dico il nome perché non voglio prendere querele, ma che senso ha, quando non ci sono i soldi, quando ci sono dei pensionati che vivono con 500 euro, prendere 8 Maserati? E beh, la notizia però è uscita sui giornali, cioè al Ministero della Difesa hanno preso i Maserati. Ma mi dica lei, cosa ci fanno con i Maserati? Ah, non lo so, io proprio... Potevano prendere un Fiat. invece del Masera. Ah, quindi lei dice come Monti che vuole le macchine italiane, insomma, giusto? Sì, ma, macchine italiane per comunque incrementare, aiutare l'Italia, insomma. Senta, ma mi dica questa cosa, è vero che lei ha detto in confronto alla politica attuale io ero un po' una santa? Una santarellina, sì. Sì, perché cosa... casa, scuola, chiesa. Cosa, perché cosa... Che vede nella politica attuale che la fa reputare... Guardi, anche oggi ho sentito che chi ha preso per appalti, non so, 100.000 euro, insomma, ecco, su Cicciolina l'hanno potuto dire sempre, è stato denunciato per oscenità, atti osceni in luogo pubblico, ma su di me non si potrà mai dire che ho preso soldi dei appalti o corruzione o... sono indagato per questo, per quest'altro. Insomma, io sono sempre stata molto pulita. Mm. E allora, che dire? Allora si candida, niente, è abbastanza ufficiale per il sindaco di Monza. E poi il giorno 2 siamo insieme con l'avvocato Luca Di Carlo, che è anche il mio carissimo amico, oltre che mio compagno. E il giorno 2 siamo a Monza perché. 2 dicembre. Il 2 dicembre. Di dicembre. Cioè, siete a Monza, iniziate proprio ufficialmente la campagna. E poi dell'annuncio della DNA, della mia lista del partito, anche politico. Cos'è DNA? Che vuol dire DNA? DNA. Ah, la lista DNA, la chiamate così. Perché lista DNA? Perché dove DNA? Io sono in un cerchio, perché sono tutte, diciamo, tutta forma di cerchio. E io sono con in mano la fiamma e sulla testa invece la cosa della, come si chiama, insomma faccio la statua della libertà. Ah, fa la statua. Perché DNA cosa vuol dire? Cioè il DNA? DNA è, lo sappiamo che cos'è. Ah, il DNA, certo, sì. E DNA. Perché l'avete chiamato però così? Democrazia, natura, amore. Ah, perfetto, democrazia, natura, amore, in bocca al lupo, ovviamente, e grazie per essere stata tanto, con noi. Grazie, ne abbiamo bisogno. Grazie. Io spero che l'Italia ne esca fuori, però purtroppo sentendo i problemi europei pare che ci vorranno tre anni per assestarsi economicamente. Speriamo bene, 2 anni, 3 anni. Grazie intanto a Ilona Staller, Cicciolina, per essere stata con noi. Prenderà il vitalizio, ma anche si lancia in questa nuova avventura. DNA, la lista. Sindaco a Monza vuole diventare. Bocca al lupo! Allora, eccoci qua a parlare di questa proposta di Fini, che ha detto aboliremo i vitalizi. Poco fa avevamo Ilona Staller nei nostri microfoni. 60 anni, lunedì li compirà e quindi prende il vitalizio. Come funziona il vitalizio dei deputati? Non è altro che la pensione, chiamiamola così, pensione dei parlamentari. Per accedervi oggi basta aver occupato lo scranno parlamentare per 5 anni consecutivi. La legge dice questo, bisogna fare 5 anni interi. Aver compiuto 65 anni, in passato era diverso, per questo Ilona Staller andrà a 60 anni, in pensione. Ogni mese il deputato praticamente gli viene trattenuta sulla paga l'8,6%, cioè 1.006,51 euro della propria indennità lorda, che viene accantonata, e poi c'è il vitalizio quando compie appunto la legislatura. Ne vogliamo parlare con l'onorevole Antonio Mazzocchi del Popolo della Libertà, lo ritroviamo, è anche uno dei questori della Camera. Onorevole, buongiorno. E benvenuto. Buongiorno a lei, radioascoltatori. Saluto anche Antonello Caporale di Repubblica. Antonello, buongiorno. Buongiorno a voi. Interviste, coi politici sono imperdibili su Repubblica, no? Questi botte e risposte. Allora, onorevole Mazzocchi, intanto quando Fini dice cambiamo, aboliamo i vitalizi, intanto cerchiamo di capire, quelli attuali non possono essere toccati, no? Toccati non perché non si vogliono toccare, perché vi sono sentenze della Corte Costituzionale che parlano di diritti quesiti non soltanto per i deputati, ma per qualsiasi lavoratore, per qualsiasi dipendente. Certo, quindi si parla per il futuro, si sta ipotizzando per il futuro, cioè i futuri parlamentari potranno non avere il vitalizio. Qualcuno dice è un po' una fregatura messa così, in realtà si sta pensando di cambiare il sistema, non è che si vuole abolire del tutto il vitalizio. Beh, guardi, le devo dire che non solo il presidente Fini, ma tutto l'ufficio di presidenza e anche tutta l'assemblea di tutti i partiti, quando si è trattato di votare il bilancio del 2011, ha votato all'unanimità, per cui nessuno escluso, di cambiare il vitalizio e trasformarlo in altro sistema più equo, che rispondesse più alle esigenze anche di quanto i cittadini chiedevano. Non a caso è stata messa su attraverso il Collegio dei Questori una commissione che sta studiando un sistema contributivo, cioè come qualsiasi lavoratore che certo, dà i contributi e che dopo 8 anni in base ai contributi dell'INPS ha una pensione regolare, ecco, mentre adesso abbiamo un vitalizio poi ci sarebbe una pensione normale. Ecco, infatti ci faccia capire come può diventare più equo un sistema che adesso con 5 anni di legislatura dà circa 2.000 e rotti euro di pensione, no? Non a caso, più equo diventa perché, ecco, le faccio il caso limite, dopo 10 anni di diversamenti come qualsiasi impiegato, un deputato prenderebbe dai 1.500 ai 1.600 euro, questo è il discorso. Ah, rispetto invece alle attuali? L'unica stonatura, e qui anche il giornalista di Repubblica che mi sta ascoltando sicuramente condividerà, che mentre un impiegato in una pubblica amministrazione ha degli avanzi di stipendio anche in base all'anzianità, in base alla carriera, il deputato rimarrebbe sempre fisso con quell'onere, sicché mentre che le posso dire, anche se nelle pensioni attuali noi abbiamo il sistema contributivo e non più retributivo, però ecco, per un impiegato è capace che dopo 15 anni ha fatto determinati scatti e per cui il parlamentare mi dica che il parlamentare rimane uno sfigato, no? Rispetto all'impiegato. Lei pensi un deputato di 30 anni che lo fa per 2 legislature, a 40 anni si trova e non viene più eletto e prenderà questi 1.500 euro a 65 anni. Credo che sia poi abbia questa grande fortuna. Vabbè, sentiamo Antonello Caporale. Allora, intanto non c'è solo la questione del vitalizio, bisogna capire cosa vuol dire abolire il vitalizio, c'è anche la questione, so che ne volevi parlare, l'assegno di reinserimento, questa è bellissima, cioè uno finisce di fare una legislatura e che succede? Gli danno dei soldi? Cos'è, un TFR? Ecco, il titolo per ritornare a fare il proprio lavoro. Il problema della politica è che essa stessa genera l'antipolitica, cioè il cattivo uso della pratica parlamentare, dell'utilizzo della funzione pubblica, produce una deriva. Dunque, in Parlamento quest'anno, in questa legislatura, ci sono circa 120, forse l'onorevole Mazzocchi mi correggerà, avvocati, ciascuno dei quali continua a fare l'avvocato, mediamente tutti fanno un secondo lavoro, con una grandissima distorsione, un vulnus democratico enorme. Il mandato parlamentare è un mandato a tempo, ma viene usato nei ritagli della giornata. Lavoro, quindi l'incarico privato, si valorizza col mandato parlamentare, perché accanto allo studio avvocato metto on subito, produco più parcelle e addirittura trasfiguro la mia funzione. Per esempio, l'onorevole Ghedini è parlamentare perché è avvocato di Berlusconi, o in quanto avvocato di Berlusconi è anche parlamentare. Dopodiché, si potrebbe dire, per essere equi e terzi, l'onorevole Buongiorno, che difende Meredith, è presidente della Commissione Giustizia, difende Fini, è lì perché difende Fini o è lì perché è un bravo e riconosciuto ed è vero, grande avvocato? Dopodiché, finita questa presenza in alcuni momenti della giornata davvero vacua, inconsistente, e finita il mandato parlamentare, si ottiene un assegno. Per reinserirsi nella società. Questa sciagura culturale fa sì che, e la legge, quindi l'ha sfruttata anche lui, che l'onorevole Mastella, dopo 40 anni, 30 anni di attività parlamentare, abbia goduto di questo assegno per reinserirsi quando fu bocciato nella politica, perché è europarlamentare. Di quanto era? Non te lo ricordo. Io credo 250.000 euro. Ecco, queste voci sono, ecco, una macchia enorme che sfregiano la politica, della quale gli stessi politici non hanno cura, e producono poi L'antipolitica. L'antipolitica. Che azzera tutto. Insomma, onorevole Mazzocchi, su questo, cioè l'idea è sistema. Io sento in parte quanto dice il giornalista di Repubblica. Devo dire la verità che non esistono però alla Camera dei Deputati tanti avvocati che esercitano la professione. Chi le parla è un avvocato, appena eletto deputato si è cancellato dall'ordine degli avvocati e ha fatto politica. Ah, cioè lei non fa più l'avvocato, Mazzocchi? No, io mi sono cancellato dall'ordine degli avvocati non appena eletto deputato. Il problema è questo, ha ragione il giornalista di Repubblica quando dice che forse una regola che dovrebbe essere andrebbe fatta per legge, sì, andrebbe fatta per legge. In America chi fa il parlamentare non fa. Anche che quel professionista che guadagna un tot gli venga riconosciuto. Oggi è uno scandalo dire che un deputato guadagna 11.000 euro, che poi non sono 11.000 euro, perché sono l'indennità, sono esattamente al netto 5.000 euro, però con annessi e connessi arriviamo a 11.000. Tenendo presente però che se noi facciamo un raffronto fra tutte in Europa, ecco, le devo dire che in Europa il deputato che costa di meno è il deputato italiano, perché se le vuole le posso anche dare. Addirittura non mi sembra. No, me le dia tra un attimo, ci sono le informazioni sul traffico. Non mi sembra però che sia così, ci sono più o meno in linea, ma il deputato italiano dagli studi non mi sembra che guadagni meno che in Europa. Allora, qui Antonello Caporale di Repubblica ci sta dicendo, e le sta dicendo, onorevole Mazzocchi, che i deputati fanno spesso un doppio lavoro, che per legge lo possono fare, che questo rivaluta il loro lavoro quando escono dalla Camera. Lei ci sta dicendo, onorevole, che come i deputati italiani costano meno di quelli europei? Se vuole le dico le cifre. Allora, ce le dica. Abbiamo fatto fare una ricerca a livello europeo. Noi dobbiamo guardare quanto costa il deputato complessivamente. Sì. Allora, in Italia il costo complessivo è 20.486,68 euro. In Francia è 23.066,75 euro. Ma che cosa? Al mese, al giorno? Al mese. In Germania è 27.364.000 euro. In Gran Bretagna è 21.089,83 euro. In Europa è 34.754,87 euro. Non so, ma è questo euro. Antonello Caporale di Repubblica, di fronte a queste cifre che dobbiamo... È indigeribile questa difesa dell'onorevole Mazzocchi per due motivi. Il primo si radica sempre in una truffa semantica. Io guadagno di più e vengo qui e ci perdo. Ho sentito, tu non sai quanti deputati che vengono alla Camera e perdono milioni di euro. Allora io a costoro direi, se tu vuoi bene al tuo paese, sei nella condizione di stare 5 anni qui e di perderli senza dirlo. Se tu, come a me sembra, non vuoi bene al tuo paese, fai solo fuffa, perché 3/4 di quei deputati che dichiarano, producono dichiarazioni enormi, le sviluppano. Il caso milanese è un caso straordinario, attraverso la politica. Non diciamo bugie che sono, poi ci fanno tutti Pinocchio e facciamo una cosa cattiva. Cioè la politica è un moltiplicatore di redditi. A inzeppare di parcelle il 7,40. La politica serve a sviluppare l'ascensore sociale, chiamiamolo così, la carriera, quando, e io non capisco perché, ci sono dei problemini. Allora la politica è un tram che va velocissimo e sul quale tutti si fiondano, e si fiondano al punto che la selezione della carriera politica non è fatta attraverso un curriculum, un impegno, una passione, ma un legame, una relazione di tipo fiduciario col capo corrente, col capo cordata, tanto che la legge elettorale che adesso obbliga il titolare della carica elettiva a stare con la schiena piegata, con una postura servile davanti al capo, perché se il capo non vuole, Mazzocchi, non so quale sia il suo capo, non sarà candidato. È il popolo della libertà, Mazzocchi. Nessuno, te lo garantisco, adesso sono proprio obbligati a cambiare questa schifezza immonda di legge. Ma se potessero, e forse potranno, perché la politica utilizza dei sistemi meccanici di fisica, vuoto e pieno, cioè si arretra se vede che proprio non ne può fare a meno, ma appena capisce che la società civile, che è spesso incivile quella italiana, perché poi noi parliamo e non guardiamo quanto dentro di noi siamo anche correi di questa situazione, ecco, si abbiocca, loro proseguono. Hai mai sentito che vogliono cambiare la legge elettorale? Sono proprio obbligati e tendano adesso di annacquare un po'. E tu dici però non è detto che ce la faranno. Fatemi sentire un ascoltatore, Davide da Treviso, ci ha chiamato l'800240024. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo parlare di diritti acquisiti. Sì. Ho visto che ne state già parlando, prima avete accennato che ci sono delle sentenze della Cassazione che dicono che bisognerebbe calcolare sì. anche per... Cioè i vitalizi semmai si toglieranno dai parlamentari futuri, non dai parlamentari attuali, perché i diritti acquisiti, sentenze appunto giurisprudenziali dicono non si possono toccare. Lei dice? Io vorrei capire perché nessuno mai ne accenna sul fatto che non si possono toccare. Cioè, io ho 30 anni, avrà applicato per me il metodo contributivo sicuramente, non ho capito perché una persona che ha fatto 5 anni da parlamentare ha diritto comunque ad avere un vitalizio o comunque una pensione. Che si sta cercando di cambiare, però Davide, si possono cambiare, il problema è che se uno le cambia e poi c'è quello che a cui viene cambiata fa ricorso, quello che ci sta dicendo l'onorevole Mazzocchi, da cui ho capito che sentenze giurisprudenziali gli darebbero ragione. No? E quindi non sarebbe una battaglia che farebbe perdere del tempo e darebbe poi ragione a colui al quale viene cancellata questa pensione, o no, Mazzocchi? Sono sentenze della Corte Costituzionale, è un po' come se, che le posso dire, lo scandalo delle pensioni Bebbi, per parlarci chiaramente. Sì, sì. Ecco, lì fu una legge sbagliata. Però ormai ce la teniamo. Cioè, il concetto è questo, tra l'altro. Io mi accontenterei, Alessandro Milan, mi accontenterei che venissero cancellati i vitalizi per il futuro. Comincia tanto, mi sa che non ho cambiati in meglio. Lo so che bisogna essere ottimisti. Io dubito che succederà, però insomma mi accontenterei di questo. Onorevole Mazzocchi, io devo chiudere, c'è un leghista, l'onorevole Buonanno, che ha detto io al vitalizio rinuncio. Si può questa cosa farla? Lei che è questore? No, per legge no. Non si può. Quindi cos'è, una butad? È qualcuno che dice io rinuncio al vitalizio. Ma guardi che se andiamo avanti di questo passo, secondo il giornalista di Repubblica, stia tranquillo che noi avremo una Camera dei Deputati dove nessuno vorrà più essere pagato, perché gli grossi industriali, i grossi banchieri sicuramente non vogliono essere pagati. No, però questo non esageri, su questo sto con Caporale, il vittimismo a dire, cioè da qua l'onorevole Paniz ci disse che guadagna sì e no 300 euro, gli rimangono sì e no 300 euro, cioè anche questa cosa che lo fate tutti per carità di patria. Però insomma lo fate e non vi rimangono soldi, è una cosa francamente poco credibile. Giustamente l'obiezione di Caporale è: ma se uno lo fa per soldi, statevene a casa e fate un altro lavoro. Se invece uno lo fa per la patria, va bene, rinunciate a qualche soldo e va bene così. In ogni caso vi ringrazio e staremo a vedere come va a finire. L'onorevole Antonio Mazzocchi del Popolo della Libertà, questore alla Camera, e Antonello Caporale di Repubblica. Grazie a tutti in redazione, da Viola Bottoni, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e il nostro Peter Bescapè in regia. A domani, 7:20.